Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zoodi 105 Channel, registrato da Anthony. Per altro materiale, cerca su Telegram Zoodi 105 Archivio Bot. Wender e Fabio Alisei presentano... Questo è Polaroid, istantanee di storia della musica. C'è un detto fra i berberi del Sahara, gente taciturna, con il volto coperto da teli di cotone indaco e le mani mangiate da freddo e sole. Vale più un incontro casuale che 100.000 appuntamenti. Ecco, questa è la storia di un incontro, di una fusione, di una sovrapposizione. Un'associazione materica e digitale fra elementi differenti. Un Trojan capace di infettare il disco fisso della riproduzione musicale mondiale, rilasciando terabyte di aberrazioni elettroniche, destinate a deviare il corso della storia. Parliamo dell'incontro fra Guy Manuel de Homem Cristo e Thomas Bangalter, evento generatore di una nuova matrice, di un nuovo cybercorpo, di un nuovo messaggio diffuso da bioreti neurali. Fibra, luce, suono. Progetto che era già futuro prima di divenire presente e che tuttora non coincide con la comune linea temporale, come una cometa che sfiora il pianeta senza mai collidere. Il crononauta indossa guanti, casco, tuta, entra nel miniaturizzatore e si converte in UAV. Anno dopo anno, traccia dopo traccia, byte dopo byte, raccontiamo la storia dei Daft Punk. Processo di digitalizzazione attivato. Avvio compressione. Caricamento in corso. Invio. Avviate il download. Inizia con la live. Polaroid, istantanee di storia della musica. ...1993, Parigi, 17° arrondissement. Questo film è la storia di quel sound, dell'uomo che lo creò, della ragazza che lo cantò e del mostro che lo rubò. È stato menomato, incastrato, picchiato, derubato e mutilato e ha venduto la sua anima al diavolo per il rock and roll. Ma non lo possono tenere distante dalla donna che ama. È un uomo mascherato, un musicista, un sopravvissuto. È il fantasma dell'opera di Brian De Palma e pulsa per la 100ª volta sul tubo catodico nella stanza di Thomas sopra i binari Batignolle. Letto, scrivania, mensole, sedie, tutto è ricoperto di strumenti elettronici, tastiere, computer, sintetizzatori, libretti di istruzioni. Sopra il letto singolo, in una cornice di ottone, c'è una pagina del magazine musicale britannico Melody Maker. È una recensione, una stroncatura di una band francese conosciuta come Darling, protagonista di una mediocre cover electro house dei Beach Boys. Dice semplicemente... Stupida spazzatura punk. E Daft Punky Trash. Da quel film, da quella recensione, da quel groviglio di cavi, nascono i tre elementi fondanti del più grande fenomeno di fine millennio. L'identità protetta dal casco, il suono elettronico e il nome del duo, The Daft Punk. Un nome destinato a girare il mondo. We'll be right back. 1999, Parigi, Soma Quality Recording Studio. La vita accelera. Sul piatto gira More Spell on You di Eddie Jones. Guy dice: suonala ancora una volta, Thomas. Ho una mezza idea. Ancora una volta? Ancora una volta? One more time. One more time. Sono innamorati di questo pezzo, fottutamente fusi da quel giro che sbriciolerà le casse delle disco di mezzo emisfero boreale. Sono pazzi di un amore sintetico e autentico, un amore totale, puro, un amore digitale, digital love. Cresce la voglia di chitarra rock, di metallo, di roba che pesta e lascia il segno come una catenata. Qualcosa di più aggressivo, tipo: dacci dentro, fallo ora, duro, meglio svetto forte. Dacci dentro, fallo ora, duro, meglio svetto forte. È il momento momento della scoperta delle proprie potenzialità, Discovery, come il titolo dell'album, il tempo in cui il successo non è né davanti né dietro, è di fronte e va affrontato faccia a faccia, face to face. Consacrazione che possiede chiavi segrete, quelle per aprire lo scrigno nascosto in fondo al cuore che custodisce il bambino che è in noi. E nell'infanzia del duo mascherato, di cui nessuno conosce l'identità, c'è un pirata con il cuore spezzato, il volto solcato da una cicatrice, la benda sull'occhio e il timone di un'astronave in mano. Capitan Harlock. Il suo creatore, Leiji Matsumoto, vive alla periferia di Tokyo, in una casetta con le porte di carta, il laghetto con i pesci combattenti, la tartaruga e le canne di bambù. Thomas e Guy aspettano quasi 3 ore fuori dalla porta, sotto la pioggia, prima che il disegnatore decida di farli entrare. In fondo sono solo 2 ragazzi di 25 anni, 2 fan, con una valigia piena di sogni e un progetto che non sta in piedi. Che non sta in piedi. Interstella 5555, un musical a cartoni animati, una follia. Ed è per questo che Matsumoto accetta. La fusione di esperienze ed energia, di arte e visione, affilano i bordi del progetto Daft Punk. Lo rendono più veloce, più incisivo, più dinamico. Discovery diventa aerodinamico. Istantanee di storia della musica. Floyd, istantanee di storia della musica, si ferma e torna tra poco. Solo su Radio 105. Su Radio 105 c'è. Qui c'è. Polaroid. Istantanee di storia della musica. 2005. Coachella, California. La fine di un progetto, il raggiungimento di un obiettivo, generano spesso desiderio di evasione, di estraniazione, di isolamento. La fantasia è un sistema entropico, consuma energia e la rivuole indietro. In fondo, anche i Daft Punk sono umani, dopo tutto. Così, agli eroi mascherati più famosi del millennio, dopo Batman, Spider-Man, il Tulipano Nero e Zorro, servono 6 anni di silenzio per resettare l'anima. Un silenzio rarefatto, oscillante, caotico. Un silenzio tecnologico. Ma Thomas e Guy sentono di essere elementi compositi, biologici e binari, connessi al flusso di dati universale come cyborg. Una volta ricaricati, sono pronti a rimettere casco e guanti e a diventare nuovamente due robot rock. L'approccio con il nuovo progetto è più rabbioso, aggressivo, techno. Maturità e sperimentazione rivelano la presa di coscienza del mondo circostante. I media controllano il pensiero. Il potere opera per seduzione. Chi governa la comunicazione governa il popolo. È l'inizio di una nuova era nella quale tutto accade dentro un monitor. Television rules the nation. 2008, la rete, metropoli del cyberspazio. Mi allontano solo per un attimo, ragazzi. Cambiate musica, mutate l'atmosfera, date una bella scossa a ragazzi e ragazze, se la cosa non vi dispiace. 2CLU, utility di sembianza codificata, resi anonimi da un casco intermittente, performano in un ambiente asettico, composto di pixel sovrapposti. Osservano con aria distratta un combattimento tra intercettori ai LED rossi e ribelli ai LED blu. Il risultato della battaglia non le riguarda. Sono solo due applicativi lanciati per creare musica, per costruire l'architettura sonora dell'epopea di Tron. Milano. Arriva in radio dentro una valigetta arancione di plastica. Nessuna scritta, nessun mittente, nessun marchio. Solo un avviso caution e un codice alfanumerico sul retro. La scansione del codice con il telefono reindirizza ad un link esterno, un numero di 4 cifre, la combinazione della valigetta. Al suo interno c'è un vinile, due maschere, una stringa di numeri e lettere. La stringa conduce ad un secondo link, autorizzato per un solo download. E se sei fortunato, puoi ascoltare il nuovo singolo dei Daft Punk. Per cui, prega di esserlo. Get lucky. Like the legend of the Phoenix. with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Memories, il K2 della musica elettronica, l'album che trasforma i Daft Punk da leggenda a culto. Con loro Pharrell Williams, Nile Rodgers, featuring di peso per cancellare una latitanza durata 5 anni. Una nuova presenza che ripaga della lunga assenza. Un disco universale fatto di 2000 giorni a ripetersi nel cervello. Pensaci su, devi uscire con qualcosa che ti porti più su, devi scrivere la storia come fossi Gesù, e il radio manderà nel disco come un loop, se farai la cosa giusta sarà. Pensaci su, devi uscire con qualcosa che ti porti più su, devi scrivere la storia come fossi Gesù, e il radio manderà nel disco come un loop, se farai la cosa giusta sarà. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight. Memoria d'accesso casuale. Bookmark. PIN, cookies, flussi di ricordi che fanno riaffiorare antichi amori. Ma soprattutto vecchi maestri, punti di riferimento, centri di gravità permanente come il guru italiano dell'elettronica, Giorgio Moroder, al quale i Daft Punk dedicano il meritato tributo. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Nell'album che consacra il duo celato dal casco come la realtà digitale più avanzata di ogni epoca, c'è spazio per ogni sfumatura dell'anima. Gioia, malinconia, determinazione, paura, ricordo. Sentimenti lavati via dalla pioggia, quando ti perdi dentro te stesso per danzare all'infinito. Della musica si ferma e torna tra poco solo su Radio 105. 22 febbraio 2021. Epilogo. Hero Robot 1 e Hero Robot 2 camminano nel deserto di sale. I loro caschi, dorato e argentato, brillano nella luce del giorno. Refoli di vento sollevano sbuffi di polvere quando il robot d'argento si arresta, rimuove il giubbotto di pelle e rivela un interruttore conficcato nella sua schiena. La sua batteria è esaurita, così come il suo tempo. Il robot d'oro aziona senza un fremito il dispositivo di autodistruzione e il robot d'argento si allontana di un passo per ogni secondo del countdown. 3, 2, 1, boom! A zero l'automa esplode in migliaia di frammenti di metallo e cuoio ed il tramonto inghiotta il robot d'oro che si allontana. Questa sequenza di Electroma, il loro film del 2006, pubblicata senza preavviso su YouTube, è il testamento digitale dei Daft Punk, l'opera muta che annuncia la fine del loro progetto, la macchina che più non funziona. Un addio silenzioso, dopo tanta musica. Il saluto discreto e impersonale di chi ha vissuto 30 anni senza volto. Touch, I remember touch. Pictures came with touch. A painter in my mind. Tell me what you see. A tourist in a dream. A visitor, it seems. A half-forgotten song. Where do I belong? Tell me what you see. I need something more. Kiss, suddenly alive. Happiness arrive. Hunger like a storm. How do I begin? A room within a room. A door behind a door. Touch, where do you lead? I need something more. Tell me what you see. I need something more.